sagrado, osala coram, mutite. Io espiro. E Dio moro. Alfin sposi io farò sull'uom che adoro. Eccellenza, m'appello. È giusta la sentenza, o pagare o sposar. Bravo, Don Curzio. Bontà di sua eccellenza. Che superba sentenza. Finge superba. Siamo tutti vendicati. Io non la sposerò. La sposerai. O pagarlo. Osarla. Ti ha prestato 2000 pezzi. Son gentiluomo. E senso l'assenso dei miei nobili parenti. Dove sono? Chi sono? Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli. Qualche bambino trovato? No, perduto, dottor, anzi, rubato. Come? La prova! Il che te fa? Simonio! Loro le gemme ricamati panni, che nei miei più teneri anni mi ritrovarò addosso in masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre, e soprattutto questo il mio braccio impresso, gerolitico. Un ostacolo impresso al braccio destro! E a voi chi disse? E verso Dio, chi? E i ladri ti rapirono presso un castello. Ecco tua madre. Paglia! No, tua madre.